Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera, ben ritrovati a Rock Wave Live, Io mi racconto, con Gilles Facchinelli ai microfoni. Una serata live dedicata questa sera alla musica emergente del Veneto. Precisamente questa sera ci muoviamo tra Padova e Venezia. Possiamo quindi iniziare, do il benvenuto a Radio Cooperativa a Estela. Buonasera a tutti. Dico bene Estela? Sì. E un benvenuto anche a Frank. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, Estela, tu sei giovanissima, no? Sì. Quanti anni hai? Ho 21 anni. Ecco, 21 anni e ti chiedo, diciamo che sei di Mestre o preferisci dire che sei veneziana? Perché allora, so che qui c'è... Sono nata a Venezia ma vivo a Mestre. E quindi possiamo dire che sei veneziana? Sì, grazie. Io inizio a dire perché sei qui questa sera. Perché io ho avuto modo di ascoltarti due volte in giuria al concorso musicale al Festival di San Marco di Trivignano, con la direzione artistica del maestro Dino Bighesso, dove hai raggiunto il primo posto e lì mi avevi già fatto una buona impressione, e poi ancora in giuria nella finale del Vota le Voci di Sandro Sartori e Matteo Tisato ad Abano Terme, dove hai partecipato a due categorie, cover e inediti, ma dopo magari ne parleremo meglio. Io non è che amo definirmi, e non lo sono, un scopritore di talenti, semplicemente sono uno che ascolta musica e propone quello che ritiene essere delle voci interessanti, ed è per questo che Estela è qui con noi questa sera. Prima di tutto, Estela, oltre che essere qui per raccontare di te, perché il programma si chiama appunto Rock Wave Live, Io mi racconto, raccontare di te in ambito musicale, sei qui anche per presentare il tuo primo inedito. La prima cosa che ti chiedo è come e quando quindi hai deciso di creare il tuo primo inedito. Diciamo che è stata più che come e quando, è stata una necessità. Perché avevo bisogno comunque di far sentire e capire alle persone cosa stavo provando in quel determinato momento, quando appunto è nato questo inedito. Non riuscendo ad avere altri modi, ho cercato di scriverlo in musica. Cosa ci racconti di questa canzone? Anzi, ti chiedo io, gli arrangiamenti e i testi? Allora, innanzitutto l'arrangiamento è di Gabriele Oggiano e invece il testo è mio. E quindi abbiamo lavorato insieme ed è venuto fuori questo brano, insomma. Ecco, di cosa parla la canzone? Allora, possiamo dire che parla di un amore che comunque è una richiesta praticamente d'aiuto alla fine. E infatti dal titolo, che si intitola Aspettami, appunto questa richiesta d'aiuto a chiedere di essere aspettata nonostante tutto. Quindi è una canzone anche autobiografica? Sì. Di questa canzone è iniziata già la distribuzione oppure no, ancora? Non ancora. Non ancora, però appunti, sì, certo. Poi ne parleremo anche, evidentemente credo che tu stia facendo anche degli altri passi in avanti, sì. Però ti farò una domanda alla volta. Io direi a questo punto, prima di tutto, di dare spazio alla vostra musica. Inizierei proprio dal tuo inedito, Aspettami. Per tutto il tempo che è passato su noi, ma che non ti ho dato mai. Per ogni sbaglio che di nuovo farò, da cui non imparerò. Perdonami, anche quando non Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, Frank, io sì, guardo sempre, mentre non sembra, ma vi osservo sempre, no? Vedevo che ascoltavi con molta attenzione questa canzone di Estella. Sì. Cosa ti piace di questa canzone? Allora, innanzitutto mi piace il fatto che abbia scritto lei il testo, perché è una cosa che in tanti sottovalutano, il fatto di scrivere un inedito, ok? L'inedito vuol dire scrivere il proprio testo, scriverlo con le proprie mani, con le proprie idee, con il proprio vissuto, se vogliamo dirla così. E mi è piaciuto molto, l'ho trovato fresco e non scontato, che è molto facile. In queste canzoni qui, soprattutto scrivendo in italiano, è molto facile cadere sullo scontato, sulla scrittura scontata. Invece questo testo mi è piaciuto molto anche per questo, per il fatto che è giusto nel momento giusto, le parole sono usate bene e mi è piaciuto per questo. Frank, sì. Anche tu giovanissimo, quanti sì, anni hai? Io ne ho 22, fra poco ne compirò 23. Pensate che spettacolo io ho davanti, una generazione nuova che sta venendo fuori nella musica. Tu sei padovano? Sì, io sono di Padova. Quindi qua giochi in casa oggi. Sì, esatto. Fammi un omaggio alla tua, alla nostra città. Come la si vive alla tua età questa città? Ma guarda, devo essere sincero. Secondo me Padova è una bella città, però potrebbe essere molto di più. Molte volte tante cose che si hanno magari non si considerano appieno. Ecco, secondo me questa è la... Io riassumerei così la città di Padova. Ha molte potenzialità che potrebbe sfruttare anche dal semplice fatto della musica live, parlando di sì, musica. Secondo me avrebbe tante potenzialità, avrebbe tanto da offrire, ma ha un po' il freno a mano tirato, però comunque io essendo sì, padovano... Sì, ma questa è una problematica che riguarda un po' città, a livello nazionale, da sì, quello che sento un po', che ho la fortuna di ospitare vari musicisti che... ad esempio parlavo con i Campos la settimana scorsa, che per un buon periodo uno dei loro componenti ha fatto parecchi anni a Berlino. Sì. Non è che a Berlino la qualità musicale sia eccelsa, certo, però ti dà la possibilità di suonare in tantissimi certo, locali. Sono molto aperti da questo punto di vista e non chiedono a nessuno quante persone mi porti. Esattamente. Esattamente. Tu stasera sei qui con la tua chitarra, perché sì, sia Frank che Estella canteranno dal vivo, ma appunto intanto parliamo un po' di te, no? Sì. Tu parti da una band. Sì, diciamo che il mio percorso musicale parte da lontano. Prima di iniziare a cantare ho imparato a suonare vari strumenti, piano, chitarra, e ho suonato diversi anni in una band come chitarrista, fino ad arrivare a registrare un album. Dopodiché la band si è sciolta, io ho intrapreso il mio percorso da solista, in quanto già scrivevo e avevo l'esigenza di cantare ciò che scrivevo. Magari prima scrivevo, ma non ero io a cantare i miei testi. E l'altro motivo fondamentale per cui ho intrapreso il mio percorso da solista è il fatto che la musica... Cioè, non mi ricordo la mia vita senza musica e quindi non potevo non continuare, e l'ho fatto e lo sto facendo ancora adesso. Tra l'altro ormai è da 2 anni e mezzo che suono e mi esibisco live da solista, e devo dire che ho raccolto tantissime cose positive in questi 2 anni e mezzo che non mi sarei mai aspettato, per un certo verso, ed è molto bello. Cioè, poi tu da solista quindi incidi il tuo primo inedito, sì, Crisi d'astinenza, esatto, distribuito dalla Sorry Mom. Esatto. Anche a te quindi chiedo chi sì, ha collaborato, allora, con te alla Allora, io sono l'autore del testo e anche della musica. L'arrangiamento e la produzione è stata fatta insieme a Lorenzo Sebastiani, che è il mio produttore, e poi la produzione, la fase di produzione... Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con dei grandi nomi della musica italiana e non... Facciamoli questi con, sì, nomi. ad esempio con le chitarre le ho registrate insieme al chitarrista di Cesare Cremonini, Andrea Morelli. Le batterie invece le ho registrate a Londra da Alex Reeves, che è un batterista di una band che si chiama Elbow. Però cioè, la cosa che più mi ha fatto specie quando ho collaborato con queste persone qui è il fatto che fossero persone estremamente alla mano, estremamente semplici, considerando il fatto che settimane dopo aver registrato con me magari dovessero fare concerti a San Siro, certo, oppure andare in tour con i Rolling Stones nel caso del batterista, cose, certo, spaziali. E quindi è stato un piacere e un onore per me. Ecco, io dico sempre che a volte si è un po' resti, no, a dire chi collabora assieme, perché sì, magari uno ha paura di dire vado un po' oltre, qualcuno magari pensa che sia chissà chi. No, sì, dico, esatto. Diciamo lo so, beh, però è importante perché queste persone, questi artisti poi si avvicinano a dei giovani, perché significa che hanno anche delle qualità. Di che parla la tua canzone, Franco? Allora, partiamo da il concetto base del pezzo, che è quello di è un guardare al passato con la consapevolezza di quella che è la situazione presente, di quello che è stato però non è più. Diciamo che il focus della canzone è il fatto di non rimanere fermi, bloccati in qualcosa che non esiste, nel senso non porsi delle barriere che poi alla fine sono solo mentali. Infatti la mia frase preferita del pezzo è con gli occhi chiusi, chiuso dentro una stanza aperta. Questo è, diciamo, il riassunto di quello che è il nocciolo della questione, per così dire, è il fatto appunto che le barriere che ci poniamo sono solo mentali. Basta magari aprire gli occhi e si riescono subito ad abbattere, a superare. Questa canzone ha anche una punta di nostalgico, se vogliamo dire così, in quanto definisce una situazione presente diversa da quella che magari era in passato, situazioni che non sono più le stesse per via della mancanza di alcune persone, alcune situazioni che si venivano magari a creare in passato che però adesso non ci sono più. Certo, quindi un testo importante, ecco. Sì, non lo definirei importante, lo definirei nostalgico, ma non troppo. Io direi di ascoltarci la tua canzone e poi torneremo nuovamente in diretta. Crisi d'astinenza, Frank. Sei come le dita della mia mano. Guardavo in basso e vedevo il cielo, spalle al muro appeso a un filo, io che mi fidavo di te. Sei come un maglione indossato male, di quelli rossi che io correvo qua a pizzicare. Sapevi che parlavo di te. Allora parlami, parlami dell'ultima volta. Guardami, guardami, quel tanto che basta. Dammi una ragione che la mia l'ho persa già da un po'. E sono in crisi, crisi, crisi, crisi d'astinenza. Cancellare i miei sbagli, Guardavo in basso e vedevo il cielo, spalle al muro appeso a un filo, io che mi fidavo di te. Rock Wave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ecco Frank, questa è una canzone, io sono abituato quando preparo un po' il Rock Wave Italia, naturalmente mi riascolto tutta la mezz'ora sì. Di musica. Questo è proprio un brano che ci sta assieme a quelli dei Big, alternata un po' dalla musica emergente. Questa è proprio una canzone che ci sta, bella, fresca, grazie. Ritmo, veramente, veramente bella. Veronica, cosa ti piace della canzone di Frank? Diciamo che il testo, secondo me, oltre che ovviamente la musica prende molto ed effetto, il testo, ascoltarlo indipendentemente da tutto, prende. Cioè, è una cosa che bene o male credo tutti si possano rivedere in quello che dice, ecco. E anche il fatto che prima abbia sottolineato della stanza aperta nonostante noi avessimo gli occhi chiusi è un'immagine molto, molto bella. Molto bello. E anche l'arrangiamento. Sì, molto. No? Grazie. Bravo Frank, complimenti. Veronica, io ritorno a te, vi alterno un attimino. Allora, ho visto che dal 2015 tu hai partecipato ben a 15 concorsi musicali. Che esperienza hai ricavato fino ad oggi da poter raccontare a chi ti sta ascoltando e soprattutto perché puoi adesso consigliare a tanti giovani di prendere un microfono e cantare davanti a tante persone? Diciamo innanzitutto che la mia esperienza è cominciata, diciamo, per gioco, perché il mio primo concorso è stato appunto quello fatto dall'Accademia Vola Voce del maestro Dino Vighesso. E dico per gioco perché sono stata iscritta paradossalmente da mia mamma, io non volevo, perché ho sempre cantato da sola a casa o comunque alle classiche sagre, chiamiamole così. Queste mamme fanno anche del bene. Esatto. A volte. E c'erano in palio appunto queste borse di studio, ho detto vabbè mamma, ma figurati se vado io e vado a vincere una borsa di studio. Però alla fine aveva ragione lei e avendo preso il secondo posto il maestro Dino Vighesso mi ha dato appunto la possibilità di iniziare a studiare da lui e incominciare questo percorso, perché alla fine è un percorso anche di crescita. E non avendo fatto niente prima, ovviamente sono stata, diciamo, avvantaggiata, perché comunque tutte le tecniche di respirazione e tutto il resto, no? Esatto. E infatti lo ringrazio tutti i giorni il maestro Dino Vighesso per avermi insegnato tutto questo. E il fatto di calcare tanti palcoscenici aiuta come esperienza personale e come esperienza anche artistica ovviamente. Parlo soprattutto dal punto di vista personale perché aiuta, diciamo, a sbloccare tante cose, a sbloccare la timidezza piuttosto che il modo di porsi anche alle persone, perché comunque se si è una persona un po' anche introspettiva o comunque che si sta un po', diciamo, sulle sue, il fatto di calcare un palco aiuta perché hai il contatto con le persone, perché vedi che quello che stai facendo alle persone, cioè praticamente c'è subito il, riesci a capire subito se alle persone arrivi, se alle persone piaci o meno. Posso consigliare questo a tante persone, devo dire, perché oltre ad aiutare fa bene, quello è l'importante. Tu, Frank, hai partecipato a concorsi musicali? Io sì, adesso non mi ricordo bene quanti. Beh, ho partecipato l'anno scorso al Vicenza Rock Contest, poi ho partecipato al Fine Festival, che è più un festival che un concorso. Rise Festival ho partecipato anche, e, insomma, diciamo che era più un contesto di festival, ecco, certo. Dove c'erano, non era, il focus non era sulla gara, chiamiamola così gara, ma sul, su una serata con diversi artisti che proponevano la propria musica, principalmente musica inedita. E così, sono belle realtà, devo dire. Anche quelle, certo. Veronica, nella finale del Voto alle Voci ad Abano Terme hai partecipato a due categorie: sì. Cover, terza classificata, e inediti, seconda classificata. È stata, credo, una bella sfida e non facile farlo sulla stessa serata. Cosa ti ha spinto a partecipare a due categorie nella stessa edizione? Perché penso, non mi ricordo se sei stata l'unica. Sì, sono stata l'unica. Diciamo che è stato anche una sfida con me stessa, perché comunque il fatto di avere l'adrenalina solo per un pezzo, comunque uscire, sapere di dover uscire solo una volta sul palco, dici ok, so di dover fare quello, i miei 2 minuti e poi basta. Però il fatto di essere sempre sotto pressione, ho voluto testare anche me stessa, perché se in un indomani io dovessi comunque, come vorrei che fosse, lavorare nell'ambito della musica, comunque sostenere un concerto da soli è diverso che fare magari un'uscita solamente di 2 minuti, certo. E finita lì. E quindi ho voluto provare a fare le selezioni con entrambe le categorie e fortunatamente sono passata ad entrambe, e quindi ho avuto questa bellissima esperienza per tutta l'estate. E quindi fare le cover, fare le roulette song, portare il mio inedito e vedere che comunque la gente apprezzava è stato veramente appagante come cosa. Nel 2018 abbiamo visto che è stato un anno impegnativo per te. Per il 2019 ti stai preparando ad altri concorsi o solo un nuovo inedito o speriamo a un album? Allora, innanzitutto sto preparando degli inediti nuovi, sì. Stiamo lavorando per voi. E per quanto riguarda i concorsi, diciamo che adesso sono tra virgolette un po' ferma, perché comunque voglio ampliare un po' la cosa e non soffermarmi solamente sulle cover. Sì, fare cover è bello, però preferisco, sarebbe meglio secondo me, anche per me parlando personalmente, riuscire a arrivare con qualcosa di mio, non solamente con l'interpretazione di pezzi di altri, che per carità è bello, ci sono arrivata, sono andata avanti fino adesso, però credo che sia il momento di svuotare, di cambiare pagina. Io ti ho proposto di portare appunto anche due cover, perché avendo solo un inedito, però io avevo piacere che chi ascolta potesse, perdonami il giro di parole, ascoltare ancora la tua voce in altre, su altre versioni. La prima è una canzone di Josh Stone. Sì. Ci dici il titolo e anche perché ci hai portato questa canzone? Allora, il titolo della canzone è Karma. Tutti sappiamo ovviamente che il karma è ciclico e gira per tutti. Certo. Però comunque credo che la canzone mi rispecchi nel mio lato più oscuro, chiamiamolo così. Quindi non ci sono solo le canzoni d'amore, ma ci sono anche le canzoni un po' più strong, chiamiamole così, dai. Sei pronta? Sì. A little bit longer, maybe. Could've made it on my own. I should've been let you go. I should've been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know, I know, I know. I wouldn't be here alone. thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. This is a twist. I are what you are, and so am I. So come as your master, and you're the bitch. A little bit longer, baby. It's so hard to see when you are on and off for me. You could have tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not my sinner, baby. Radio Cooperativa. Perché mi guardi così? Perché è bello, perché è bello sentirvi cantare, è bello darvi questa possibilità, e perché è una cosa veramente stupenda sentirvi cantare. Anche perché dovete sapere che non abbiamo fatto un check prima, quindi non c'è possibilità di provare. Vengono qui e partono, quindi per loro non è cosa semplice e lo sanno fare veramente bene. Bravi ragazzi. Frank, sì. Io volevo torno a te e volevo chiederti cos'è che ispira le tue canzoni. Il fatto che amo di più della musica e dello scrivere è che l'ispirazione non viene mai dalla stessa cosa. È sempre un processo diverso ogni volta. Magari si parte dal testo, si parte da una sola parola dalla quale poi si sviluppa un intero testo, un intero concetto, un'idea attraverso la quale si esprime anche uno stato d'animo. Però l'ispirazione non saprei dirti da dove arriva, forse da tante cose messe insieme, anche cose che risalgono magari a tanti tanti anni fa e che poi vengono a galla e fanno scaturire quel qualcosa che ti porta a scrivere. Quella vocina nella tua testa che ti dice cosa scrivere, non saprei come certo. Spiegarlo. Cioè, anche tu in pratica ti metti degli appunti e avrai il tuo libricino. Allora, solitamente cui... io sono uno che pensa tantissimo, mi faccio un sacco di pare mentali. Però anche questo è il bello dell'intero processo, ecco, rientra anche questa, è anche questa una fase del processo. Solitamente mi vengono le idee, poi me le appunto, me le scrivo, e possono magari stare lì mesi, come possono stare lì mezza giornata e poi le concludo subito. Dipende tutto dal mood generale del momento. Credo che a questo punto tu stia preparando anche qualcosa di nuovo per il 2019, visto che certo. Hai detto che questa sera presenterai un po' questi due inediti. Verso fine febbraio partirà la produzione effettiva dei nuovi brani. Quindi siamo prossimi. Sì, siamo prossimi. Quindi uscirà per quest'estate, ecco, indicativamente. Quindi ci sarà anche qualche bel brano estivo al suo interno. Allora, a me non piace etichettare i brani, nel senso che nel momento in cui si etichetta un brano gli si toglie qualcosa, lo si limita. Però, insomma, poi vedrete voi, dovrete voi decidere se è un brano estivo, ci sarà qualche brano estivo oppure no. Mettetelo dove volete, perché vi mettiate all'ascolto della mia musica. Esatto. Quali sono le difficoltà maggiori che incontri per proseguire il tuo sogno musicale, se ce ne sono difficoltà? Allora, io sono dell'idea che ci possono essere tutte le difficoltà di questo mondo, ma se una persona è determinata e crede fortemente in quello che fa, tutto è risolvibile, tutto si può superare, qualsiasi cosa diventa quasi niente di fronte alla grandezza della volontà di una persona. Poi ovviamente possono esserci problemi di diversa natura, però se una persona è veramente determinata e sa quello che vuole, allora secondo me nessun ostacolo è insuperabile. Anzi, mi capita che faccio ogni tanto questa domanda. La cosa positiva che trovo in voi giovanissimi che state uscendo un po' dalla musica è che vi rendete conto che ci sono delle difficoltà, perché non è facile, lo sappiamo bene, soprattutto in questi periodi emergere in ambito musicale. Però trovo in voi, in ognuno di voi, una risposta sincera nel fatto di dire sì, siamo consapevoli delle difficoltà, ma noi andiamo avanti, perché la musica è vita. Certo. Questa è la prima cosa che conta. Ecco, bravissimo. Diamo spazio alla tua chitarra e alla tua voce. Okay. Quindi cosa proponi, che canzone è, e poi allora, tornando al discorso del pezzo estivo, questo inedito che vi presenterò adesso ha un titolo che potrebbe richiamare a qualcosa di estivo, ma non lo è. Allora, il titolo è Mare. Voglio introdurre questo pezzo solo con una frase, nel senso, io questo pezzo l'ho scritto per avere un antibiotico contro la scontatezza del voler bene una persona. E niente, questa è Mare. Ricordo ancora quella notte, continua a fare male. Mi son distratto forse troppe volte, di giorno a brancolare. E se avrai paura del mare, del temporale, della fine dell'estate, tu dillo a me. Tanto lo sai che resti in piedi lo stesso, mi pento se tengo tutto dentro. Urlassi tutte le cose che sento, non basterebbe una vita ma solo uno sguardo. Disabitato e fragile abbastanza da polverizzare questo muro tra noi. Le mie parole inchiostro rosso da sparare sotto pelle, tra paure e insicurezze della gente come me. Come te, so che qui non c'è la metro, ma ricordati che se avrai paura del mare, del temporale, della fine dell'estate, tu dillo a me. Tanto lo sai che resti in piedi lo stesso, e se sarà più facile cinture di sicurezza. Non ne abbiamo avuta mai troppa. La notte è fonda, ma noi tocchiamo lo stesso, guardiamo il sole che affonda. E noi, no, tra noi, boh, di noi, di noi so che se in foto usciamo male, è il contesto che conta. Giuro è l'ultima volta che passo, ti guardo distratto. E se avrai paura del mare, del temporale, della fine dell'estate, tu dillo a me. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Complimenti Frank. Grazie, grazie mille. Bella voce e un bel suono di chitarra. Grazie. Scorre bene, non so se posso, sì, se sì, riesco. Grazie mille. Estela, la musica è vita per chi la crea e la canta, ne abbiamo parlato proprio 2 minuti fa, no? Come ti senti musicalmente in questo momento della tua vita? Allora, diciamo che non è proprio un momento bellissimo in questo momento, scusa il gioco di parole, ma... E diciamo che sto cercando il più possibile di mettere giù, indipendentemente che sia su carta o su qualsiasi altro dispositivo, qualcosa, perché ci sono delle sensazioni che ho bisogno di fissare e magari riprenderle in un secondo momento e dire sì, ok, adesso da qui posso tirare fuori qualcosa. E comunque devo... Mi sono messa di impegno ed obiettivo di cercare appunto di esprimermi nel migliore dei modi, anche se tante volte penso tutti parlando non si riesca. E quindi scrivere alla fine è il modo più semplice e più diretto di farlo, e dopo se ci si mette sulla musica magari si va anche bene. Meglio. E cosa rappresenta per te Aspettami? Cioè, tante cose in effetti, perché... come ho detto prima, è un grido d'aiuto, è una continua speranza, che comunque si continua a sperare in una cosa che magari si sa già che non è così, che è solo una cosa, un pensiero proprio, però si continua a sperare nonostante tutto. E visto che parliamo di Aspettami, cosa ti aspetti da qui in avanti? Parliamo sempre in ambito musicale. Sì, certo. Mi aspetto di riuscire ad arrivare dove mi sono posti i miei obiettivi, quello sì. Perché sono riuscita a fare in questo periodo, comunque da quando ho cominciato, tanti piccoli passi, però non sono mai riuscita ad arrivare dove volevo io. Sì, sono contenta dei traguardi che ho raggiunto, di quello che sono riuscita a fare, però credo che sia arrivato il momento, come accennavo anche prima, di voltare pagina e di trovare comunque chi sono e cosa voglio essere. Tu sei stata finalista di Area Sanremo nel 2017. Sì. Che esperienza è stata, che puoi condividere con i ragazzi? Diciamo che come tutti i concorsi, chiamiamoli così, di impronta talent, è una situazione un po' caotica, se possiamo dirla. Perché comunque con il sogno della musica e con il sogno di arrivare siamo in tanti, forse in troppi. E ritrovarsi con tante persone con il tuo stesso sogno, sì, da una parte è bellissimo, ma da un'altra è un incubo. Perché è il rovescio della medaglia, nel senso che tu devi avere quel qualcosa che convinca che gli altri non hanno. E se non sei convinto te, in prima persona, di quello che sei, è difficilissimo da raggiungere quell'obiettivo lì. Nonostante ci sia un sacco di gente e tutti vogliamo quella stessa cosa lì, secondo me il bello di questa esperienza è che comunque riesci a carpire qualcosa da ognuno alla fine, perché non ci si conosce, ok, magari ti scambi una parola, parli 5 minuti, basta poco, e riesci magari a tirare fuori quel qualcosa che dici sì, ma questo a me manca, e quindi magari ascoltandolo da un'altra persona vedi anche le cose da un altro punto di vista e riesci magari a smussare qualche angolo che tu hai, o comunque a migliorare qualcosa che prima non vedevi. Senti Stella, e dove possono seguirti intanto? Chi magari volesse dire vabbè, stasera l'abbiamo ascoltata, però siamo curiosi anche un po' di vedere. Sì, allora ho cominciato con due pagine social, quindi c'è quella Instagram e quella Facebook. Quella Instagram si chiama Estela Official e lo stesso su Facebook. Prossima cover? Prossima cover. Nina Zilli, Senza appartenere. Sì. Perché questa canzone? Perché diciamo che è l'unica artista nel panorama musicale italiano dove mi rispecchio. Perché comunque generalmente rimango sempre sulle sonorità soul, le sonorità R&B, e credo che sia l'unica che comunque, sì, nel suo piccolo, ecco, riesca a portare questo tipo di panorama in Italia. Sono d'accordissimo perché con te. Comunque in America sappiamo che di R&B e di soul ce ne sono a migliaia, cominciamo da Beyoncé, che vabbè, è il top, però credo sia l'unica, sì, comunque, che riesca a portare certe sonorità. Sei pronta? Prontissima. Donne siete tutti e tu non l'hai capito. Donna non di tutti e non è mai cambiato. Calda come il sole di domenica d'estate, però non è domenica e qui fa un freddo cane. Donna ha perso tempo a lucidare la sua rabbia. Il tempo che è cambiato ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma io che cosa cercavo io? Che cosa ho trovato? Schegge di felicità. Cerco una colpa per restare qui a vivere i ricordi. Io volevo salvarmi io, e poi perdonarmi per le volte che ho svelato quella parte debole di me, ma senza appartenere. Donna siete tutti e tu non l'hai capito. Donna che ha paura, donna che ha provato. Vento sulla faccia, il mare in una goccia, e sconfinati labirinti, un filo per uscire. Donna non si piace, invece guarda quanto è bella. Donna che si cambia mille volte e resta quella. Donna sa volare mentre il cielo cade. Donna sa volare mentre il cielo cade. Io che cosa cercavo? Schegge di felicità. Cerco una colpa per restare qui ad aspettare cosa. Io volevo salvarmi io, e poi perdonarmi per le volte che ho svelato quella parte debole di me, ma senza appartenere. Quando la vita è più semplice non mi diverte, ci gioco. Io non li chiamo più lividi, sono colori, e ci gioco. Io ci gioco. Io ci gioco. Na na na na na. Togliti la maschera, c'è troppa verità. Restare qui, ma senza appartenere. Donna siete tutti, e tu non l'hai capito. E non è mai cambiato. Radio Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Eccoci ritornati in diretta. Frank, è emozionante, no? Sentire la voce di... Sì, mi piace molto il graffio che ha sulla voce. Cioè, si sente che è naturale, non lo fa... artificialmente, diciamo così. Certo. No, mi piace molto. Cioè, ha una voce profonda. Cioè, mi piace veramente tanto. Ecco, il bello di poter fare queste trasmissioni. C'è anche questa mia scelta di poter dare spazio e far cantare dal vivo anche su basi musicali, perché a volte qualcuno, lo ricordo ogni tanto, qualcuno dice sì ma le cover c'è chi, grandi big che fanno successo sulle cover, vediamo Fiorella Mannoia, vediamo anche adesso le meravigliose canzoni di Giorgia che sono interpretate. Esatto. Veramente. Quindi le cover fanno bene. Frank, per te cosa rappresenta il tuo inedito Crisi d'astinenza? Allora, direi l'inizio ufficiale del mio percorso solista, però non lo definirei proprio l'inizio, perché Crisi d'astinenza è sì il mio singolo d'esordio, ma non è il primo brano che ho scritto. Cioè, ne ho scritti molti altri prima di quello di Crisi d'astinenza. Ovviamente sono molto legato al brano, perché è l'emblema, diciamo, di un cambio di direzione nel mio percorso musicale, che poi mi ha portato appunto ad intraprendere la carriera da solista. Sì, tengo molto a questo brano e sono contento che sia stato il mio singolo d'esordio, ecco, quello ufficiale, per così dire. Dove possono seguirti gli ascoltatori? Allora, vabbè, sui social network, su Instagram, digitando _ Frank Music _. Su Facebook, digitando _ Following Frank. Poi vabbè, ho anche un canale YouTube che si chiama Frank Official, dove potrete trovare il video della canzone Crisi d'astinenza, tra l'altro girato a Roma. Quindi... Come mai? Sì, come mai a Roma e non a Padova? Allora, volevo cambiare città. Sono partigiano, eh? Volevo cambiare città perché non mi piaceva farlo in casa, tra virgolette. E volevo farlo in una grande città, non che Padova non sia una grande città, però una grande città come Roma. Se la confrontiamo a Roma... Che poi, se si guarda il video, non si riesce a capire che è Roma. Nel senso, piaceva l'idea di fare il video in una grande città, ma non farlo in maniera turistica, diciamo. Roma poi perché ha un valore affettivo per me, dato che metà della mia famiglia è del Lazio, e quindi c'è anche un'area diversa, ecco. Sì. Per quando vado a Roma c'è un'area diversa, sento qualcosa di diverso. Penso che sia così per tutti. Sei stata a Roma? Sì. Hai questa sensazione o è solo la nostra? A me succede con Firenze più che con Roma. Firenze? Devo essere sincera. Come mai Firenze di più rispetto a Roma? Perché ha un qualcosa in più. Cioè, non so spiegarlo sinceramente, è una cosa che sento io a pelle. Perché dal punto di vista storico sicuramente tutte e due ne piene. Certo, quello sì, però è una cosa mia, penso. Ognuno vede coi propri occhi, esatto. No? Giusto? Allora, volevo chiederti, sì, ci sarà anche un tour estivo oppure Non è ancora in programma, perché appunto sono in apnea di produzione, quindi per sei ora... saturo per il momento. Per ora non ho ancora iniziato a pianificare una sorta di tour estivo, però comunque ci saranno sicuramente delle date in cui presenterò il lavoro in studio e non vedo l'ora di farlo sentire a tutti, ecco. Ecco, noi non vediamo l'ora, visto quello che ci hai fatto ascoltare prima, noi, sì, vediamo l'ora di riascoltare la tua voce con la tua chitarra. La prossima, sì, canzone? Allora, la prossima canzone si intitola Chinotto, come la bevanda. Ho voluto scrivere una canzone sulla malinconia vista in modo positivo, e che rimanda appunto al gusto del chinotto, che è un po' amaro, dolce, queste cose qua. Quindi viva la positività. Esatto. Vai. Esatto. Questa è Chinotto. Non ho sonno, ho tanto bisogno di un posto dove stare in silenzio col rumore di fondo dei pensieri che fondo, confondo il chinotto con il cielo di giorno e vorrei stare nascosto, sì, ma poi nessuno cerca, finisce il gioco e manchi tu all'appello. Ma mi ricordo, c'era un filosofo, diceva niente troppo, fiato sul collo. E la marea si alza con la mia luna storta, non ho la gola secca, c'è sempre l'acqua a bagnarla. Non dormo più da un pezzo, riposo gli occhi, non è facile pensare al peggio. Ho scritto questo pezzo per non restarmene giù. Settembre, stanza vista, inverno e sotto un disco dei Fu. Mi dà fastidio il tempo che passa senza salutare, a parlare si perde solo tempo, non uso l'imperfetto. Io e lei mi pare stiamo bene così, mi basta questo. Lo so, sogno. Io mentre scappo cammino con la mia mente pensandosi come un pazzo. Vedo la gente al verde, quello che prova in saldo, e vorrei vivere come una periferia. Prima lampioni, poi pianeti. Siamo astronauti, sì, ma senza teoria. E la malinconia dipende un po' come la vedi, come ti porta via. Non dormo più da un pezzo, riposo gli occhi, non è facile pensare il peggio. Ho scritto questo pezzo per non restarmene giù. Settembre, stanza vista, inverno e sotto un disco dei Fu. Mi dà fastidio il tempo che passa senza salutare, a parlare si perde solo tempo, non uso l'imperfetto. Io e le mie pare stiamo bene così, mi basta questo. Basta questo. E vorrei chiedere alla testa di uscire un po'. Al bar all'angolo ordiniamo un chinotto. È troppo amaro ma lo bevo lo stesso. Ho troppa sete, resisto. E vorrei tanto sapere il tempo fuori com'è. Qua dentro piove da luglio, il cuore perde. Ma me ne frego, mi hanno detto se hai vissuto è più bello. Se l'hai vissuto è più bello. Se chiudi gli occhi è più... Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ecco, Rock Wave Live con queste due bellissime voci di Estela e Frank. Cosa vi portate a casa da questa esperienza di questa sera, Estela? Allora, sicuramente il conoscere altri artisti e potersi confrontare è comunque un grandissimo passo avanti, almeno parlo per me personalmente. E niente, insomma, comunque anche riuscire a poter fare propaganda, chiamiamola così, dei propri pezzi è sempre un'emozione. Il sentirsi in cuffia è una cosa stranissima, ma è piacevole. Frank? Allora, per me vale un po' la stessa cosa, nel senso che mi ha fatto piacere condividere questo spazio, insomma, che ci è stato dato con Estela. Mi ha fatto piacere sentire anche la sua musica, il suo modo di cantare. È sempre bello sentire altre persone con la stessa passione per la musica che condividono lo stesso sogno, chiamiamolo così. E niente, poi ovviamente per me è stato un piacere stasera partecipare alla tua trasmissione, Gil, e niente, spero possano esserci altre opportunità. Per me è stato veramente bello, anche una quanto piacevole... mi riguarda, sì, vi darò tutte le belle opportunità che posso. È stata una piacevole chiacchierata e mi è piaciuta molto, una chiacchierata sincera, la definirei. Certo, ti ringrazio. Io volevo darvi 30 secondi, perché siamo verso un po' la chiusura, 30 secondi a ognuno di voi per dire quello che volete, magari qualcosa che io non sono riuscito a chiedervi questa sera, oppure se dovete ringraziare qualche persona in particolare che è stata importante nel vostro percorso. Volevo dire che chi magari pensa di voler cominciare o comunque intraprendere una carriera come la nostra, come stiamo cercando noi di farci la nostra strada, di provarci in ogni caso comunque vada, e non di fregarsene di quello che dice la gente e di farlo lo stesso. Io sì, più o meno sono sulla stessa lunghezza d'onda. Voglio dire a chi si mette a fare musica di scrivere cose che gli vengono dal cuore, che gli vengono dallo stomaco, che siano vere, perché chi ascolta se ne accorge. Le cose vere sono sempre premiate, e proprio perché sono vere sono più facilmente esprimibili da parte dell'artista. Per fare questo, per intraprendere questo percorso, bisogna saper cadere, però non aver paura di cadere, perché se noi non sapessimo cadere non riusciremo neanche a scrivere canzoni. Io sono dell'idea che una canzone parta sempre, volenti o nolenti, da qualcosa che ci ha segnato in qualche modo. Tutto qui, bisogna essere, diciamo, bisogna saper volare e dimenticarsi di tutto il resto. Poi le cose arrivano al momento giusto e quando devono arrivare, insomma. Allora, siamo in chiusura e io volevo far chiudere il programma di questa sera facendo riascoltare l'inedito di Frank, penso che me lo permetta. Certo. No, sì, certo. Io devo ringraziare anche una persona che è Alessandro Vigo. Sì, che lo appunto ringrazio anche io, saluto Ale, colgo l'occasione. Ecco, grazie Ale, perché è un'altra persona che mi dà appunto la possibilità di mettermi a disposizione questi artisti e appunto conoscere altre sfumature della musica emergente. Io voglio dire grazie a Estela. Grazie. Io ti aspetto qui per presto con delle belle novità. Volentieri. Sai che ti ho aperto le porte prima, figurati sì, se non te le apro volentieri quando avrai qualcosa. Io per quanto posso ti seguo a vista, tu aggiornami se c'è qualche novità, okay, perché sai che ci tengo, ok? Grazie a Frank. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a te per la bella chiacchierata. Quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa e di Rock Wave Live, io mi racconto. Grazie appunto al carissimo amico e collega Alberto Prisco, che con me collabora alla costruzione di questo programma per le interviste. E vi do appuntamento a giovedì prossimo con altre splendide voci della nostra bella musica emergente. Grazie a tutti, grazie Frank. Grazie Estela, grazie anche a David che è qui con noi, che ci ha fatto compagnia, che ha collaborato con noi questa sera per le fotografie. Vi voglio bene a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao! Sei come le dita della mia mano. Guardavo in basso e vedevo il cielo, spalle al muro appeso a un filo, io che mi fidavo di te. Sei come un maglione indossato male, di quelli rossi che io correvo tu a pizzicare, sapevi che parlavo di te. Allora parlami, parlami dell'ultima volta. Guardami, guardami, quel tanto che basta. Dammi una ragione che la mia l'ho persa già da un po'. E sono in crisi, crisi, crisi, crisi d'astinenza. Chiuso dentro una stanza aperta, non sei. arrivare. Di quelle che ho vissuto con te. E se potessi cancellare i miei sbagli, sputare in faccia questi anni tiranni, contare i segni sulla pelle degli altri, adesso che e vedevo il cielo, spalle al muro, appeso a un filo, io che mi fidavo di te. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e d'impegno sociale.